Blu Radio Veneto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Bentrovati, bentornati all'ascolto dal mondo della scuola. Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Torniamo dopo la pausa, c'era anche il ponte la settimana scorsa. Come ha fatto ponte meritatamente il nostro ospite Sandro Silvestri dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso. Benvenuto, buona giornata. Grazie anche a lei. Dunque, con lei parliamo innanzitutto brevemente, se vuol dirci di cosa si occupa tra le tante cose di cui si occupa un Ufficio Scolastico Territoriale, l'ex provveditorato, per chi parla ancora questo linguaggio. Sì, beh, ma d'altra parte sono durati per 100 anni i provveditorati e quindi facciamo fatica a cambiare lavoro. Ma in realtà di una parte che non è una parte amministrativa, ma è la parte cosiddetta degli interventi educativi. Vale a dire tutte azioni di supporto alle scuole, in primo luogo, ma anche alle famiglie o agli studenti, su alcune tematiche che hanno proprio questa caratterizzazione educativa. Quindi si va dall'integrazione, all'inclusione, alle politiche giovanili, alle collaborazioni con le ULS, alle collaborazioni fra le scuole per, come dire, cercare di mettere in atto azioni ordinarie o straordinarie che abbiano come fulcro appunto gli interventi educativi. Tra i tanti progetti appunto che state portando avanti, ce n'è uno che ha qualche anno sulle spalle ma che è assolutamente ancora valido da proporre e da approfondire. Cerchiamo di farlo nei minuti che abbiamo a disposizione. Un documento di esattamente 5 anni fa, aprile 2008, documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico, che non sono evidentemente le semplici norme generali di convivenza civile o all'interno di una famiglia. La scuola è un ambiente con delle sue specificità e avete elaborato questo documento, vuole presentarcelo? Sì, è un documento che nasce dalla collaborazione del mondo della scuola con il mondo delle ULS e con la supervisione della magistratura. A quel tempo c'era il procuratore Antonio Fogliadelli che ha molto collaborato e lavorato. E in realtà si è trattato di individuare una serie di comportamenti a rischio sia per quanto riguarda gli operatori della scuola, cioè chi ci lavora, sia per quanto riguarda le famiglie, ma soprattutto per quanto riguarda gli studenti. E quindi sono stati individuati una serie di comportamenti che possono far prevedere anche, diciamo, dei comportamenti assolutamente non in linea con la norma. Che non è la semplice maleducazione. No. Sono dei comportamenti che hanno una loro gradualità, per cui anche l'intervento che viene suggerito in primo luogo alle scuole è quello di appunto il principio della gradualità, per cui si parte da azioni a carattere informativo o formativo che possono servire soprattutto con i ragazzi a far capire loro alcune cose e poi via via si passa con dei codici che ricordano un po' i codici del pronto soccorso, codice giallo, il codice arancione, finché si arriva al codice rosso, quando i comportamenti sono così gravi per cui c'è l'obbligo anche di denuncia da parte della scuola. Lì arriviamo al reato, evidentemente. Sì, sì, sì, ovviamente per le persone che hanno capacità da un punto di vista giuridico sono dei reati, si va per esempio dallo spaccio di droga a comportamenti particolarmente violenti. Ecco, i destinatari di questo documento? Sono soprattutto le scuole. Noi l'abbiamo presentato anni fa, è sempre presente nel sito dell'ufficio scolastico, ci sono stati anche alcuni aggiornamenti perché la normativa cambia e quindi su questo abbiamo fatto anche una serie di incontri, di presentazioni, ma come dire, l'abbiamo affidato alle scuole perché loro possono utilizzarlo al meglio come una guida che serve per orientarsi soprattutto in termini di prevenzione, perché l'aspetto più importante è quello di cercare di educare i ragazzi e quindi insomma solo alla fine, se proprio non è possibile, si cerca o si arriva alla punizione, però ci sono tutta una serie di interventi che vengono prima che vogliono aiutare i ragazzi, soprattutto in termini di anche presenza di servizi da parte delle USL. L'ultima parte del documento infatti riporta tutta una serie di servizi che sono presenti nelle tre USL della provincia di Treviso e che in qualche modo possono aiutare le famiglie, la scuola, ma soprattutto i ragazzi a uscirne fuori quando si è sempre in tempo per riprenderli. Operatori, famiglie e studenti, questi sono i soggetti appunto chiamati in causa da questo documento, perché è vero che al centro dell'attenzione della scuola c'è il bambino, il ragazzo, il giovane appunto, però anche gli operatori possono commettere errori o avere condotte improprie, come vengono definite, e anche le famiglie. E qui allora come funziona il meccanismo? Ciascuno degli altri due attori si mette in moto per correggere un po' quella che in linguaggio evangelico si chiama correzione fraterna? Sì, questo è il modello, anche se sappiamo che per gli operatori, avendo un datore di lavoro che risponde per loro, in qualche modo è abbastanza facile riuscire a intervenire. Con i ragazzi, con gli studenti, anche perché insomma alla fine sono previste anche... Perché sono anche fisicamente nello stesso posto. Sono fisicamente lì e quindi in qualche modo sono controllati. Con la famiglia invece il discorso è un po' diverso, perché non è che la scuola abbia un potere di intervento nell'ambito familiare, per cui qui prevale l'aspetto in termini di collaborazione, di esempio, di aiuto. Come dire, la scuola è... e anche i servizi, perché insomma in realtà sono loro che fanno il lavoro maggiore, sono disponibili a richiesta, per cui si tratta di far fare alle famiglie in cui ci sono ovviamente dei momenti critici o dei comportamenti che non sono insomma molto molto corretti, l'invito ad cercare di rendersi conto che è un problema e quindi trovare una possibile soluzione. È soprattutto un atteggiamento di aiuto verso la famiglia. Ovviamente non la possiamo costringere, la possiamo però convincere, per cui il tentativo da parte della scuola è quello appunto di dire: ci sono delle possibilità, qualcuno può fare qualcosa per te, però tu lo devi volere, se tu non lo vuoi ci si ferma prima. Beh, già rendersi conto del problema è buona parte della soluzione. Breve pausa e poi torniamo insieme. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Devo andare via e porterò con me solo l'essenziale. Perché il mio progetto costruisce tutto sotto un altro sole. Se uno parte è perché non può più stare qui, ma c'è ancora una notte insieme. Per poter dare ai fatti un nome che non sia fine. Devo andare via senza avere niente da dimenticare. Perché nei ricordi abitano amori ed amicizie vere. Questa vita si arrotola al tempo e ci dà il potere di non sbagliare, perché il tempo ci insegna quando e da chi tornare. Regala un orizzonte e ancora una notte insieme. Devo andare via perché il mio cuore sta battendo lentamente. E se cerco Dio dentro la libertà ci trovo poco o niente. E non fa solo male ma molto di più, ma c'è ancora una notte insieme per poter dare ai fatti un nome che non sia fine. Ma si vincerà e si perderà, siamo e restiamo sempre noi. E se perdi ti puoi sempre rifare. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con il mondo della scuola, oggi con un tecnico, possiamo definirla così, dottor Silvestri, sì, perché sì, è un funzionario del ministero, alla fine voi siete una parte appunto della grossa macchina della pubblica istruzione, no? Come si chiamava una volta. Stiamo parlando con lei di questo documento del 2008 sulle norme di convivenza in ambito scolastico, condotte in da parte degli operatori, degli studenti, soprattutto anche delle famiglie, che vanno corrette con una gradualità di interventi. Nell'esperienza di questi anni, soprattutto nei primi anni in cui è stato applicato, vorrei che ci facesse magari qualche esempio per rendere più comprensibile a chi ci ascolta in che cosa è consistito, in che cosa consiste questa iniziativa. Sì, soprattutto all'inizio, una volta che è stato presentato e diffuso, molte scuole l'hanno utilizzato proprio come guida, per cui hanno organizzato in collaborazione con le USL tutta una serie di iniziative, soprattutto in termini informativi, per andare a individuare possibili comportamenti problematici, rendere le persone consapevoli appunto della problematicità e cercare anche una riflessione e poi anche un'azione correttiva. Devo dire che è stato molto utilizzato nelle scuole superiori della provincia di Treviso e in moltissimi casi è stato utilizzato anche come base per la costruzione dei regolamenti di disciplina, perché ogni scuola deve avere un proprio regolamento che deve essere ovviamente approvato, ma in qualche modo anche questo regolamento deve tener conto del principio della gradualità, perché insomma non è che si mandino a casa le persone così, per cui gli interventi anche, diciamo così, a carattere disciplinare devono avere sempre e comunque un aspetto rieducativo. Perché è chiaro che l'obiettivo della scuola non è quello di punire, ma è quello di cercare di aiutare a riconoscere l'errore e a non farlo più, insomma, quindi c'è questo principio. E quindi sulla base di questo documento, che ripeto è del 2008, ma poi insomma ha cominciato a essere attivo soprattutto l'anno successivo, ci sono state parecchie iniziative da parte della scuola. Ripeto, adesso è passato un po' di tempo, forse bisognerebbe un po' riprenderlo e rilanciarlo, però insomma è sempre uno strumento che comunque ha dimostrato di essere valido. Tra l'altro è stato anche presentato in ambito regionale, perché soprattutto la consulta degli studenti di Treviso, che in qualche modo ha anche lavorato su questo, ha cercato di coinvolgere anche le altre consulte provinciali, perché in ogni provincia c'è una consulta che ha due studenti rappresentanti per ogni scuola superiore, e nel corso di un seminario di studio fatto nel 2010 o 2011 se ne è parlato, diciamo, tutto il Veneto, diciamo, gli studenti del Veneto rappresentati in consulta ne hanno parlato e quindi l'hanno esaminato, e io sono convinto che in altre province è stato utilizzato, se non in maniera così a tappeto, però insomma è stato utilizzato da qualche scuola per avere degli spunti, perché poi l'importante è avere chiarezza delle idee, ma anche degli spunti operativi su cosa fare. Educare anche un po' di sensibilità, no? per essere attenti a quelle che definivamo, no, condotte improprie o comportamenti sbagliati, non solo in senso verticale, quindi gli operatori che controllano tra virgolette i ragazzi, ma anche tra pari, immagino. E soprattutto perché diciamo che l'idea che nasce appunto da questo documento ed è stata condivisa a livello provinciale, soprattutto con l'EUS, ci ha portato come ufficio a privilegiare come modalità di intervento la peer education. È uno strumento estremamente potente perché l'esempio del compagno è quello che ci convince. È quello che trascina nel bene e nel male. È quello che trascina soprattutto nel bene. Nel male dobbiamo mettere qualche paletto. Perché no, nel senso che sì, poi ci sono anche quelli un po' più vivaci, sì, che trascinano in basso, no? Sì, però... ho detto vivaci, diciamo, con molto eufemismo. Sì. E diciamo che se noi riusciamo a individuare dei ragazzi che siano dei testimoni... e come tali vengono recepiti anche dagli altri, noi siamo sicuri che il messaggio che cerchiamo di veicolare coglie il bersaglio. Su questo abbiamo fatto dei grossi lavori con le US della provincia, soprattutto con quella di Treviso. Abbiamo fatto proprio dei progetti specifici per lanciare questa peer education, e anche perché molti degli operatori dell'ULS, soprattutto quella di Treviso, ma anche le altre devo dire, ormai da anni hanno adottato questo modello. E questo ci consente appunto di non pensare più ad interventi in termini di informazione o di conferenza, perché sappiamo che insomma possono essere talvolta anche noiosi e comunque non c'entrano il bersaglio, quanto passare attraverso la formazione di alcuni studenti che poi si rendono protagonisti, sia in termini per esempio di accoglienza quando arrivano i nuovi ragazzi nelle scuole superiori. Uh-huh. Molte scuole hanno, come dire, un comitato di accoglienza, chiamiamolo così, quindi dei ragazzi un po' più grandi che si preoccupano di far conoscere ai ragazzi appena arrivati il come funziona la scuola. Diventano quasi dei fratelli maggiori che danno delle dritte, io dico anche per sopravvivere all'interno della scuola, perché è un mondo completamente diverso. Oppure hanno sono previsti interventi, per esempio, per veicolare alcune azioni, chiamiamole di promozione alla salute, le cattive abitudini alimentari, il fumo, cioè tanto per fare l'alcol, qualche esempio, l'alcol, eccetera. Pesante, sì. Per cui insomma avere in ogni scuola un gruppo di ragazzi che testimoniano con la loro condotta dei comportamenti virtuosi serve molto a convincere anche i ragazzi che magari possono avere delle loro debolezze. Di questo continuiamo a parlare dopo l'ultima pausa, lanciando anche un appuntamento per il prossimo 23 maggio. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola con il dottor Sandro Silvestri dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Si occupa, dirige l'Ufficio Interventi Educativi, occupandosi, non l'abbiamo detto anche se è ovvio, che lei si occupa di tutta, dalla scuola dell'infanzia, quindi dai 3 anni fino ai 19. Quindi è un range molto alto, evidentemente anche con le difficoltà di calibrare progetti adatti ad ogni età. Beh, certamente, anche perché diciamo il coinvolgimento diretto degli studenti diventa molto più facile a una certa età, quando sono piccoli è un po' difficile. Ecco, abbiamo fatto un excursus veloce sul documento sulle norme di convivenza in ambito scolastico, elaborato nel 2008 con vari soggetti che hanno contribuito. Lei stesso ha detto un documento da riprendere, scorrendolo adesso evidentemente ne vedo io stesso la validità e l'applicabilità. Toccando un tema che è spesso venuto fuori anche nei nostri appuntamenti settimanali all'interno della scuola, la legalità. I ragazzi ne parlano sempre più spesso, non solo per quanto riguarda le considerazioni generali sul crimine o la malavita, ma anche sulla legalità dei propri singoli comportamenti, anche quotidiani. Qualche esempio di iniziative che avete portato recentemente nelle scuole? L'argomento legalità è un argomento che sta molto a cuore alla scuola, perché è chiaro che insomma i ragazzi vanno educati anche ai principi di legalità. Negli ultimi anni noi abbiamo cercato come ufficio di coordinare le iniziative di collaborazione fra le scuole, gruppi di scuole e le forze dell'ordine, per esempio, e quindi facendo sì che ci fossero dei momenti di incontro fra l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, cioè chi si occupa soprattutto di legalità, creando delle occasioni di incontro con i ragazzi, con gli studenti. E diciamo che questi momenti di confronto sono stati sicuramente utili, anche perché voglio dire, molte cose i ragazzi non le conoscono. Per esempio non hanno un'idea di che cosa sia un reato, sono convinti che determinati comportamenti siano tra virgolette quasi naturali, mentre siamo già nell'ambito del reato. Abbiamo fatto anche degli incontri con la magistratura, soprattutto con il procuratore Foiadelli, che più volte ha incontrato i ragazzi nelle scuole, e diciamo che attraverso il dialogo e il colloquio si riescono a focalizzare bene alcuni interventi e quindi ci si chiariscono le idee. Questo come attività, diciamo, in generale. Poi in modo particolare ci sono alcune scuole che partecipano a dei progetti che noi ormai portiamo avanti da oltre 10 anni, soprattutto con il coordinamento provinciale dell'Associazione di Volontariato. È un progetto che si chiama Voci di Fuori, Voci di Dentro, che è partito tanti e tanti anni fa, quindi oltre 10 anni fa, e che ha come scopo quello di coinvolgere un certo numero di ragazzi di alcune scuole, non molti perché il progetto è in qualche modo limitato, perché abbiano nel corso dell'anno l'occasione di riflettere su alcune tematiche aiutate da associazioni di volontariato, e poi possono condividere con i ragazzi del carcere minorile di Treviso, che è l'unico nel Triveneto, un momento di incontro, alcuni ovviamente, perché siccome loro non possono uscire, certo, siamo, sono gli altri che devono siamo entrare. Noi che dobbiamo entrare. Ecco, e quindi c'è uno scambio, una reciproca conoscenza anche di questo mondo che è così diverso rispetto alle esperienze, che mette in moto anche un principio, se vogliamo, di solidarietà. Quindi molte scuole, partendo da questo progetto che, ripeto, ogni anno vede una giornata conclusiva, e quest'anno sarà il 10 di maggio, quindi i ragazzi che hanno lavorato si ritroveranno tutti assieme e poi un piccolo gruppo avrà l'occasione di passare qualche ora nel carcere minorile. Questo è un progetto, secondo me, unico in Italia, sia per la durata, perché un progetto che dura per 10 anni vuol dire che insomma le persone ci credono, ha una certa solidità, sì. Sì, e anche perché è costruito nel corso degli anni, è stato costruito veramente veramente bene. Questo è uno. Poi abbiamo sempre una giornata che tradizionalmente Noi vogliamo non festeggiare, ricordare, ed è il 23 maggio, è l'anniversario della strage di Capaci, e ogni anno come ufficio, attraverso varie collaborazioni, cerchiamo di costruire un momento per gli studenti delle scuole superiori, ovviamente accompagnati dai loro insegnanti, perché non è un giorno di vacanza, è un giorno di impegno, in cui cerchiamo ogni anno di portare un testimone, e quest'anno, e quindi sarà il 23 maggio, portiamo il fratello del giudice Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, e dovrebbe essere con noi, uso sempre il condizionale perché non si sa mai, ma insomma, all'ultimo, sì. Sì, però insomma abbiamo fatto partire stamattina l'invito alle scuole, le scuole interessate adesso si iscrivono, e quindi con l'ingegner Salvatore Borsellino ci sarà questo momento di racconto, di riflessione, anche di testimonianza, perché i ragazzi hanno bisogno di conoscere, di sapere. E oltre a questo, tradizionalmente noi chiudiamo quell'appuntamento con un ricordo del 23 maggio, che verrà fatto dalla dottoressa Darè, che ogni anno fa questo intervento. Ecco, è significativo, da Capaci sono passati 21 anni, nessuno di questi studenti era nato. Sicuramente. E quindi è già passata una generazione, insomma, è importante ricordare, come si fa per il giorno del ricordo, ancora di più adesso, no? Sì, i primi anni in cui ci siamo impegnati a fare questa cosa, parliamo di 6-7 anni fa, beh, i ragazzi già allora non conoscevano, cioè avevano vaghe idee su questo. Però lavorando, e grazie anche al lavoro della consulta, che insomma è lei che organizza questo, ogni anno si cerca di approfondire anche un argomento, un sottoargomento. Dove si svolgerà questo incontro del 23? Questo si svolgerà a Treviso, quest'anno lo facciamo al Palladio, l'anno scorso l'abbiamo fatto a Conegliano, al Dacollo, ma tradizionalmente cerchiamo di farlo al Palladio di Treviso. Che è anche il più capiente, abbastanza, sì, capiente come, sì, logistica. È un'aula magna che ci garantisce oltre 500 persone, e ogni anno dobbiamo respingere qualche richiesta perché poniamo dei limiti, insomma. Certamente. La scuola va rappresentata, però non possiamo portare una scuola intera, insomma. Va bene, allora segnatevi la data, magari ne parleremo in quei giorni. Ringraziamo il dottor Sandro Silvestri dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso per la presenza, buon lavoro. E grazie anche a voi. Grazie di darci la parte tecnica, da Mirko Cavallini, appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.